La web radio che stai ascoltando appartiene a Circuito Radio NetWeb, il primo network di musica copyleft. Signore e signori, benvenuti al Mangia Show. Presenta il Mangia. Buon divertimento. Ladies and gentlemen, welcome to the Mangia Show. Presents the Mangia. Enjoy. Benissimo, eccoci qua. Ben entrati all'interno del Mangia Show. Quest'oggi abbiamo iniziato con una nuova sigla. Un saluto a tutti gli amici e a tutte le amiche sintonizzate quest'oggi su questa radio per ascoltare la trasmissione che vi porta per mano la scoperta della musica Creative Commons. In apertura vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio carissimo amico. Auguri Joe, auguroni veramente, 100 di questi giorni a te e a famiglia. In apertura vi ricordo un pochino che cos'è questa trasmissione che state ascoltando su questa radio. Il Mangia Show è un contenitore radiofonico che vi permette di ascoltare principalmente nella musica Creative Commons, quindi non protetta dai diritti d'autore della SIAE. Oltre alla musica ci cimentiamo anche nella lettura di argomenti più o meno, diciamo così, importanti, meno importanti, il tutto insomma con la mia verve, passatemi questo termine, insomma con la mia conduzione. Io sono il Mangia, rimarremo insieme per circa 60 minuti, quindi di grande musica e grandi notizie lette dal sottoscritto. In apertura vi ricordo anche il mio sito, se magari volete interagire con il sottoscritto, www.andreamangiarotti.com, è un blog, lì potete, se vi va, scrivermi oppure leggere i miei post. Però vi invito magari a scrivermi una letterina, una mail, se avete qualcosa da comunicare direttamente al sottoscritto e, perché no, anche alla radio che state ascoltando. In apertura anche un saluto a Elisa dell'Osservatorio Astronomico di Cecima, in provincia di Pavia, per l'esattezza nell'Oltrepò Collinare, che ci segnala per l'appunto la newsletter dell'Osservatorio Astronomico. Più avanti leggeremo anche questa newsletter e vi porteremo per mano insomma alla scoperta delle bellezze dell'Oltrepò Pavese, non solo pianeggiante ma anche collinare, e le bellezze insomma del cosmo e dell'Osservatorio Astronomico di Cecima. Direi di partire immediatamente con la prima canzone, che è sempre firmata da Dark Light. Il titolo del brano è una title track, Ombre sulle stelle, Dark Light. Thank you. eventi, manifestazioni, convegni. Per lo spazio news, eventi e manifestazioni in giro per l'Italia e non solo, quest'oggi ringraziamo Elisa per averci inviato una mail. Parliamo del planetario osservatorio astronomico di Ca del Monte Cecima, in provincia di Pavia per l'esattezza, nell'Oltrepò collinare. Se cercate su Google trovate tranquillamente il portale del planetario osservatorio astronomico di Ca del Monte Cecima, in provincia di Pavia. Comunque l'indirizzo dovrebbe essere osservatorioastronomicocadelmonte.it. Non ho davanti il sito, però presumo sia questo l'indirizzo. Comunque voi cercate su Google e trovate tutti i contatti per entrare in connessione con il planetario Ca del Monte. Leggiamo per l'appunto la newsletter che ci è stata inviata da questo portale. Arriva la bella stagione, il planetario osservatorio astronomico di Ca del Monte Cecima in provincia di Pavia nel mese di aprile vi aspettano osservazioni del sole con spettacolari protuberanze a macchia solare e della volta celeste notturna, galassie, nebulose, eccetera eccetera, un working shop con escursione notturna dedicata alla conoscenza dei rapaci e della luna, una serata dedicata alle ultime novità della cosmologia per cercare di rispondere alle domande come si è formato e come è fatto il nostro universo. Speciale weekend di Pasqua, 3 giorni all'insegna del relax, buona cucina, della conoscenza del cielo, della festa della Pasqua. Sabato e domenica per conoscere l'origine astronomica con eventi al planetario e osservazione della volta celeste notturna del sole. O lunedì pomeriggio di giochi, spettacoli per i più piccoli e per le famiglie. Vediamo gli eventi per quanto concerne sabato 16 aprile alle ore 21, Working Shop, la Luna, il Signore della Notte, una serata tra terra e cielo, la scoperta del mondo della notte con l'associazione Codi Bugnolo e l'osservatorio di Ca del Monte, i legami tra la Luna e il mondo dei rapaci notturni, conosceremo meglio il nostro satellite naturale, quasi all'apice della sua pienezza, vedremo splendide immagini e materiali didattici sui rapaci, durante l'escursione notturna si lanceranno i richiami in attesa che i nostri amici rispondano e si effettuerà l'osservazione guidata della volta celeste, pensate un po', ad occhio nudo con i puntatori laser e con i binocoli giganteschi e telescopi. Tutto questo all'osservatorio planetario Ca del Monte a Cecima, nell'Oltrepò Pavese collinare, perché chi viene da fuori vi ricordo il sito che dovrebbe essere osservatorioastronomicocadelmonte.it, comunque cercate su Google perché non ce l'ho sotto mano e trovate il portale e troverete tutte le indicazioni per raggiungere per l'appunto Ca del Monte, Cecima, oltre a Pavese collinare e quindi per trascorrere una serata o una giornata direi un pochino fuori del comune e molto molto interessante e divertente. Mi raccomando, andate tutti a Planetario Osservatorio Ca del Monte. Ora un'altra bella canzone e poi parleremo ancora. It's again, it's a kiss of life. We're all stuck in, it's a kiss of life. I heard the rumors you've been spreading around town. I may be a fool, but I am no clown. So the next time you step out, make sure your mind is clear of doubts. I heard the static on the line. Billy Ray, well, he don't look so fine. But there's just one thing you should know. Ain't no Papa G and this ain't your show. Sean White, Billy Ray's Circus of Life, bellissima questa canzone. Tra le altre cose, il cantante mi ricorda un pochino come voce il compianto John Lennon dei Beatles. Una bella canzone che ho sempre reperito dal nostro grande portale che vi permette di ascoltare musica Creative Commons. Sto parlando di www.yamendo.com. Yamendo.com è il portale che la nostra emittente radiofonica attinge per proporvi la musica. Trovate un archivio veramente vasto di generi musicali suddivisi per licenze Creative Commons e anche per generi musicali, se potete ascoltare insomma della musica ambient, della musica new age, in pratica anche quelle sonorità musicali che difficilmente altrove ascoltereste, sto parlando delle principali radio commerciali italiane. E questo insomma è il bello del web, dove è possibile scovare magari dei generi musicali che non verrebbero mai programmati in alcune radio, tipo non so, magari Radio 101 eccetera eccetera. E questo insomma è il bello di internet, la libertà di internet è un po' come la libertà che ci donava un tempo le radio locali anni 70, quando era possibile insomma entrare in studio con il vinile appena acquistato sotto nel negozietto di dischi e proporlo in esclusiva. Oggi tutto questo purtroppo in FM non è più possibile. Comunque, grazie a Dio c'è il web. Vi ricordo ancora una volta i contatti se volete interagire con il sottoscritto, come che ha fatto Elisa, che gentilmente ci segnalava questo bellissimo planetario sito in provincia di Pavia, per l'esattezza a Cade del Monte Cecima. Lei ci ha scritto una mail, ci segnalava per l'appunto questo planetario, ci chiedeva di diffondere magari le notizie che vengono insomma trasmesse a noi tramite newsletter di questo planetario, insomma le cose belle che vengono svolte all'interno di questo luogo, che tra l'altro è molto molto affascinante. Andatelo a visitare, Cecima, in provincia di Pavia. Allora, i contatti, vi dicevo, www.andreamangiarotti.com è il sito, il blog dove potete interagire con me, potete scrivermi una mail oppure semplicemente leggere i miei post stando anche in silenzio senza farvi ascoltare. Se vi va, www.andreamangiarotti.com. Yeah. No, a parte gli scherzi, è una bella canzone dal titolo Mission One, un pochino così, con questo sapore retro che non guasta mai. Ora leggiamo le notizie estrapolate dal quotidiano online Blitz. Bari, eletto il presidente dell'Arcigay, pensate un po', è un etero. A Bari un eterosessuale è stato eletto presidente dell'Arcigay, a capo dell'associazione è stato nominato Francesco Brollo, che ha una compagna e una figlia. Il mondo gay barese, scrive, sarebbe in subbuglio davanti a quella che considera una provocazione. Brollo, che è stato sostenuto dal presidente uscente Enrico Fusco, taglia corto sulla vicenda. La mia prima battaglia è ottenere di vivere in un mondo in cui non ci si chieda perché uno è etero ed è capo dell'Arcigay. Come dice il presidente Napolitano, i diritti delle persone omo e transessuali non riguardano solo loro, ma riguardano tutti noi. Brollo, originario di Venezia, laureato in regia, si è trasferito a Bari per congiungersi con la sua compagna. E bravo Brollo, questa era la notizia che ci giungeva dal mondo dell'Arcigay di Bari. Ora direi di andare avanti con la musica, un'ennesima bella canzone, Josh Woodward, un po' di rock alla grande. Questo è il Mangia Show. Running in the sand, living on the land, the salty breeze was in our eyes, we stood beneath the dragonflies and danced all night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots, so tight, so free, so bright. Remember when we were just cherubs in our tender skin, for love to begin. Flowing so free, blowing in the breeze, the songs we sung so long ago, with whiskey and an afterglow, we shine like into months we knew. As life caught up, we slowly grew apart and untied our hearts. Remember when we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for love. The summer went away and the stars questo è il Mangia Show. Per collaborare con il programma www.andreamangiarotti.com. Del Mangia Show. Le braccia, è un bel disco veramente. Eccoci tornati in onda con il Mangia Show. Diamo uno sguardo alle principali pellicole in programmazione nelle sale cinematografiche italiane e non solo per questa settimana. Vediamo un po', in programmazione rimane sempre Scream 4 a sud di New York, C'è chi dice no, Drive Angry 3D, The Next 3 Day, Boris il film, Hope, Kick Ass, scusate, Mia moglie per finta, Il reparto, Amici amanti e Frozen, Sucker Punch, Nessuno mi può giudicare. Queste sono le principali pellicole che rimangono in programmazione per questo periodo. Poi vi ricordo ne usciranno altre, questo però dipende da sala a sala, dove magari nei cinema cittadini dei centri storici, mitici, vecchi, gloriosi film dei centri storici, magari trovate qualche piccola chicca che non ho potuto leggere perché non sono riuscito a trovarla. Però ci sono magari altri film che escono un pochino in sordina, vengono sdobbati dalle multisale, però se magari vi andate a fare un giro in centro, nel centro storico della vostra città più o meno grossa, magari c'è ancora il cinema, il mitico cinema di paese o di città, e lì potrete magari visionare delle pellicole di nicchia che difficilmente vengono proposte nelle multisala, che però meritano la vostra attenzione. Tra poco parleremo di cinema, attenzione, ho scovato un film particolare, saranno circa 15 anni forse che non viene più programmato in televisione, se magari qualcuno l'ha rivisto mi può comunicare dov'è che l'ha visto. Comunque sto parlando del film Giallo Napoletano di Renato Pozzetto con una serie di attori di primo piano, è uscito nella collana dedicata a Renato Pozzetto, però Pozzetto fa una parte principale, però non si vede tanto, è più, diciamo così, Marcello fa l'attore protagonista di questo film. Tra poco ne parleremo, ora una bella canzone dell'artista svedese Kammerer, i suoi album sono veramente un qualcosa di raffinato e spettacolare. Dall'album Living in Paradise ho scelto questa traccia dal titolo Mind Drifting Back, lui è Kammerer. È la lounge music del Mangia Show. Mind Drifting Back dall'album Living in Paradise. Era l'artista svedese Kramer, era molto bravo con queste atmosfere e sonorità lounge che si ascoltano con molto molto piacere. Inauguriamo per l'appunto l'angolo del DVD del giorno. Vi ricordo che in questo spazio, insomma, vi raccomandiamo un film da visionare. Questo non so se lo riuscite a reperire in videoteca, però magari lo potete ordinare dal vostro cartolaggio di fiducia, perché è facente parte della collezione di Renato Pozzetto, tutto il cinema di Renato Pozzetto. Sto parlando del film giallo napoletano per la regia di Sergio Corbucci, con Renato Pozzetto nei panni del il commissario Voghera. Marcello Mastroianni è Raffaele Capece. Pensate un po', Peppino Di Filippo, Natale Capece, Zeudi, Araia, Elizabeth Over, Michel, Piccoli, pensavo Michele Placido, Michel Piccoli, Victor Navarro. C'è anche la partecipazione di Ornella Muti questi sono gli attori principali della pellicola giallo napoletano, che ora andiamo velocemente a leggere la trama. Raffaele Capace, professore diplomato di mandolino, è incaricato di fare una serenata per recuperare un debito del padre a un banco del lotto clandestino. Qua siamo a Napoli. Durante l'esecuzione avviene una sparatoria e subito dopo un suicidio, a cui seguiranno altri due omicidi. Don Raffaele si ritrova coinvolto così in un intrigo complicatissimo che coinvolge un famoso direttore d'orchestra e suo figlio, una bellissima cantante lirica, un'infermiera, una madre superiore, due ricattatori di terzo ordine e un commissario simpaticamente nordista. Il commissario è Renato Pozzetto. Motivo di tutti questi intrighi: una bobina che è la prova di un delitto commesso durante la guerra. Ambientato a Napoli, Sergio Corbucci direi ci ha regalato un ottimo poliziesco, che con questi attori prestati magari al cinema poliziesco come Renato Pozzetto, Peppino Di Filippo e anche Giannini, ci regalano anche qualche piccola vena satirica in una pellicola direi anomala, da molti anni non più programmata in televisione, che però merita la vostra visione. Giallo napoletano lo trovate nelle raccolte di tutto il cinema di Renato Pozzetto nelle migliori edicole italiane. We'll be right back. Emma con l'H, Back to 80s, gran bella canzone, sempre ovviamente in stile dance, che questi ultimi anni insomma la dance music si è notevolmente evoluta, ci sono un sacco di generi, non so, dalla house, techno, garage, addirittura la minimal. Mi ricordo un tempo quando si andava a ballare in discoteca nei primi anni 90, insomma non c'erano tutti questi generi così che oggi uno ha solo l'imbarazzo della scelta, come si suol dire. Visto che in precedenza abbiamo parlato di musica minimal, mandiamo per l'appunto ora in onda un brano di musica minimal. La band si chiama TDK, non volevo fare pubblicità, ma è proprio il nome della band. Il titolo del brano mi pare sia Pigul, che però non so come si pronunci. TDK, musica minimal nel Mangia Show. Se è corretto il titolo Piglu, cantare TDK, questo bel lavoro di musica minimal, ahimè purtroppo è anche l'ultima canzone che conclude il Mangia Show. Avete ascoltato il Mangia Show. Informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Siamo arrivati in fondo anche per questa volta, vi ho ricordato precedentemente i nostri contatti www.andreamangiarotti.com, se avete qualcosa di segnalarci del programma potete anche scriverci, se magari non vi dovesse piacere potete tranquillamente scriverci il programma non mi piace, non c'è problema, ognuno ha i propri punti di vista e non possono essere tutti uguali, anzi meglio che siano diversificati. Bene, spieghiamo un pochino ai nuovi amici che magari si sono sintonizzati in ritardo che cosa si sono persi. Vi siete persi il Mangia Show, questo contenitore settimanale di musica Creative Commons. Oltre alla musica ci dilettiamo a leggere qualche news reperita in giro per il web. Io sono il Mangia, vi ricordo che mi potete trovare sul mio sito www.andreamangiarotti.com, ma anche sui principali social network, basta cercare Andrea Mangiarotti sia su Twitter che su Facebook. Mi trovate, potete aggiungermi come amico e all'interno di quei luoghi potremmo discutere di quello che volete. Non ci sono tanto sui social network, sono sincero, però insomma sempre meglio magari il sito personale per scrivermi direttamente un'email. Ovviamente rispondo a tutti, non vi preoccupate, è sempre un piacere vedere che ci siete in tanti. Grazie ancora, grazie anche a Elisa che ci ha scritto una mail e ci segnalava per l'appunto ci segnalava il planetario astronomico K del Monte, vado a memoria, spero sia giusto. Grazie Elisa per la tua mail e grazie anche a Fabrizio che ci ha scritto una mail con dei complimenti, troppo gentile, grazie veramente. Tutto quello che viene fatto in questo show è praticamente amatoriale, goliardico, così per divertirci come si faceva un tempo nella radio sotto casa. Magari si andava prima al negozietto di dischi ad acquistarsi il vinile e poi lo si suonava in radio. Questo è il nostro spirito che oggi difficilmente trovate nell'FM italiano. Grazie ancora a tutti, ci ritroveremo, Dio piacendo, prossimamente. Bye bye, ciao ciao. La web radio che stai ascoltando appartiene a Circuito Radio Network, il primo network di musica copyleft.